Tutto questo è cominciato centinaia di anni fa. L'ho visto a Paracolombo che lasciava la città su una nave colorata, dalla Spagna comperata per andare in India come non si sa. C'è da dire che l'equipaggio che faceva questo viaggio era un resistente con abilità.